Va bene, antropologia culturale 27 aprile. No, la quarta. Ah, è la quarta, allora, antropologia culturale, quarta lezione, sì, giusto. Quarta lezione, antropologia culturale 27 aprile del 2012. Allora, vediamo come siamo messi. Allora, spero di avervi spiegato grosso modo finora, spiegato e illustrato con qualche esempio, qual è il posto o una possibile funzione o il modo in cui nella sua breve storia, cioè dalla fine degli ultimi anni del XIX secolo in poi, diciamo, è nata e si è sviluppata l'antropologia culturale, cioè lo studio delle culture, lo studio storico delle culture differenti dalla nostra. È evidente che uno studio di questo tipo ha un senso soltanto se noi mettiamo queste culture in relazione con la nostra, altrimenti cosa stiamo dicendo? Non stiamo studiando la fisica, quindi uno dice la struttura fisica del mondo è diversa da come siamo fatti noi uomini, è un altro oggetto, eccetera. Noi dall'interno di una cultura, questo vale per tutte le scienze umane, tutte le scienze umane, quindi filosofia, antropologia, sociologia, eccetera, hanno tutte queste carattere duplice. La mente umana riflette e studia sui prodotti di se stessa, è una come dire, situazione circolare. Entro certi limiti noi possiamo supporre che il mondo esterno non c'entri nulla o c'entri poco con noi, o che esistano degli aspetti dai quali esso possa essere guardato in modo da non mettere direttamente in gioco la nostra soggettività, no? Se io devo studiare le leggi fisiche del mondo, le leggi fisiche del mondo sono la fisica, la chimica, anche la biologia entro certi limiti. Con la biologia già cominciamo, può essere un'illusione, anche noi siamo esseri viventi. Va bene, però la biologia in quanto tale studia soltanto le caratteristiche di vivente, non di noi siamo gli esseri viventi, e oltre che viventi parlanti e pensanti. Quindi. Allora, vedete, questo smetto di dire quello che forse l'ho detto sin troppo, che dietro a ognuna di queste cose la questione che ci mette in difficoltà o che ci rende problematico questo studio è sempre quella del linguaggio, sempre. È solo perché noi siamo animali parlanti e quindi parlando abbiamo un meccanismo di rappresentazione, di autorappresentazione del reale che va al di là degli immediati dati psichici che possono avere tutti quanti gli animali, o almeno tutti quanti i mammiferi, se non vogliamo essere troppo generosi, in realtà tutti gli animali. Un meccanismo, un dispositivo come quello linguistico non ce l'ha nessun altro animale, cioè la capacità di costruire realmente una specie di duplicato, e anche di triplicato, e anche di quadruplicato, perché una volta che abbiamo duplicato una volta non ci si ferma più. Possiamo duplicare duplicato, duplicare duplicato del duplicato, eccetera, eccetera, insomma siamo in un pozzo senza fondo, in un abisso senza fine, possiamo farlo 10.000 volte quanto diavolo vogliamo. Quindi è sempre quello il problema, e infatti prima o poi bisognerà che arriviamo a fare una qualche riflessione anche sul tema strategico del linguaggio, cioè non si può fare antropologia, ma già oggi penso, spero di poter dire delle cose da questo punto di vista. Allora, comunque, torniamo al problema che ho, allo sfondo che ho enunciato in precedenza. Quindi, lo studio dell'antropologia, cioè, l'antropologia, cioè lo studio delle culture umane diverse da quella a cui noi apparteniamo, perché è importante, perché è interessante? Per due motivi che parrebbero enunciati se li enuncio in maniera un po' schematica, addirittura l'uno l'opposto dell'altro. Perché? Primo, queste culture sono interessanti da studiare e ci dicono delle cose interessanti perché non sono la nostra, perché sono diverse dalla nostra. Se fossero uguali alla nostra, se metteremo lì, studiamo la nostra, come sappiamo. Quindi c'è evidentemente una situazione di fondo di alterità. Le differenti culture rappresentano l'altro. E attenzione, rappresentano l'altro in maniera di, uno potrebbe dire, vale, ma anche, in fondo anche gli stadi precedenti della nostra cultura rappresentano l'altro. Anche quando vado a studiare la storia o la filosofia della Grecia classica, studio qualcosa che non è, noi non viviamo nella Atene del IV secolo, abbiamo una polis ma un po' diversa dalla polis diciamo greca, abbiamo certo, però noi sappiamo o crediamo di sapere che cosa ci connette alla polis greca, all'Atene del IV secolo, alla Roma repubblicana, alla Roma imperiale, al Medioevo, al Rinascimento, no? E cioè che essi non sono altro che delle tappe di uno sviluppo che alla fine ha portato a ciò che noi siamo. Noi siamo direttamente figli di tutto questo altro, o di tutti questi altri, che sono state le tappe, gli stadi precedenti della nostra cultura. Quando andiamo a studiare la cultura Bororo, o la cultura degli indiani Winnebago, o la cultura di qualunque gruppo etnico con cui nel corso fra 700 e 800 più o meno l'essere umano, l'uomo occidentale è entrato in contatto, studiamo qualcosa che non ha alcuna relazione storica con noi, se non il fatto che a un certo punto queste due culture hanno fatto un impatto. E data la espansività e la pervasività della cultura occidentale, almeno nella sua fase moderna, quindi la nostra cultura è entrata in contatto con tutte le culture del mondo, prima o poi, quindi con tutti gli altri del mondo. Ma voi capite che quindi diciamo l'indiano Winnebago, il Bororo, l'Inca, il Maya, l'Asteco, come per certi versi anche il cinese della dinastia Ming o l'indiano dei regni del XV, XVI secolo rappresenta un altro, totalmente altro da me, non si è mai mescolato nel corso della storia. Quindi la dimensione della alterità è chiara. Le culture degli altri ci interessano esattamente perché sono altre, ci dicono qualcosa esattamente perché sono altre. Ma, primo punto, ma attenzione, potrebbero dirci qualcosa su di noi se fossero altre in maniera assoluta, in maniera, come dire, totale, se fossero totalmente inconfrontabili con noi? È difficile pensare che potrebbero farlo se le cose stessero davvero così. Queste culture altre, queste culture quindi che hanno un'alterità e sono interessanti perché sono altre, in realtà devono condividere qualcosa, almeno un piccolo nucleo, diciamo qualcosina di traducibile, di comprensibile nei termini della nostra cultura ci deve essere, altrimenti non saremmo in grado né di capirle né di comunicarle questa. Abbiamo ancora una volta, quindi, nei rapporti tra le culture, quindi allora è chiara l'idea, sono due cose distinte, ci interessano per la loro anche radicale alterità, ma ci interessano anche, o insieme, per la loro almeno parziale somiglianza. Quindi sono altre, ma non possono essere altre fino in fondo. sono simili ma non possono essere troppo simili. Magari simili nei mezzi di espressione anche, no? Simili in tante cose, adesso quello lo vedremo, in tante cose, possono essere sia mezzi di espressione che contenuti anche, perché no? Cioè, allora, siamo in una situazione, quando parliamo dei rapporti fra le culture, molto simile a quella, molto simile, anzi forse uguale, identica a quella in cui siamo nei rapporti tra le lingue. Anche le lingue, le diverse lingue parlate dagli esseri umani, e sappiamo che sono un numero enorme, molto grande, eccetera, se poi contiamo tutte quelle morte, tutte quelle che sono estinte nel frattempo, eccetera. Poi alcune si sono trasformate, hanno dato vita, la linguistica, insomma, anche le lingue sono diverse le une dalle altre, se non fossero diverse non sarebbero lingue, no? Cioè, se ci fosse un linguaggio universale, non dico che non ci sarebbe linguaggio, ma insomma sarebbe un linguaggio che tutti parlano. Quindi, allora, devono essere diverse le lingue, quindi in qualche maniera, se sono diverse, devono avere almeno una parte intraducibile, non può essere tradotto tutto. Se le lingue fossero totalmente traducibili, non sarebbero lingue veramente diverse, perché io potrei tradurre tutto ciò che dico in una lingua, posso dirlo esattamente in qualsiasi altra lingua, e non è così, noi sappiamo che non è così. Le lingue non sono totalmente traducibili. Ma non posso dire neanche che sono totalmente intraducibili, perché sennò non potrei studiare la lingua degli altri e capire almeno in parte quello che altri che parlano una lingua diversa dalla mia. Questo vale per qualsiasi lingua del mondo, questa è un'esperienza comune. Io vado in un posto e dopo un po', se sto abbastanza lungo in questo posto e più giovane sono, meglio è, ho imparato un'altra lingua perché sento parlare e mi sono esprimere in una forma. Quindi vedete che con le lingue siamo in una situazione analoga a quella che c'è tra le culture. L'antropologia, quindi, se è lo studio delle culture diverse da quella occidentale, naturalmente non può che essere di per sé una scienza, una disciplina di tipo comparativo, cioè compara, raffronta, istituisce delle relazioni fra. Però una volta detto questo, io ho detto ben poco. Di che tipo di relazioni si tratta? A quale livello si situano le relazioni fra le culture? A livello dei contenuti? Cioè a dire, io posso prendere i contenuti, le storie, eccetera, di qualsiasi cultura e tradurle integralmente in quella di un'altra cultura? Ci posso provare, può essere, va bene, questo è un dato, è un livello. Possono essere simili, come suggeriva prima una di voi, dal punto di vista delle capacità espressive, possono andare a vedere, ci sono, sia pure parlando altre lingue o elaborando altri metodi di approccio al mondo, però posso istituire un paragone tra il modo in cui all'interno di, diciamo, differenti culture gli esseri umani si esprimono. Possono essere di tipo, di tipo storico o parastorico. In fondo una volta superato, abbiamo visto, il primissimo atteggiamento di totale disprezzo dell'uomo occidentale nei confronti delle culture diverse, viste appunto come primitive, come semplicistiche, come cosa che non è vera, insomma, come ho detto, nella primissima fase l'uomo occidentale, come quasi tutte le culture, c'è un pregiudizio etnocentrico insito in quasi tutte le culture, in tutte le lingue, in tutti i linguaggi che sono stati trovati nel mondo, quasi sempre, forse non per noi, certo, non per la cultura occidentale, e questo non da oggi ma da tempo, ma in tante altre culture la parola etnica, la parola che indica l'etnia, è la stessa che indica l'umanità. Uomo è come se uomo fosse uomo bianco, no? Bororo, Bororo, se loro si chiamano in realtà questi in maniera diversa, insomma, i Bororo del Mato Grosso del Brasile, Bororo vuol dire uomo. Vuol dire che gli appartenenti a una qualunque cultura considerano se stessi gli uomini, gli unici che hanno diritto a questo appellativo, che sono davvero la quintessenza dell'umanità. Gli altri sono, sì, sono uomini perché hanno due braccia, due gambe, due occhi, due orecchie come noi, ma da un punto di vista culturale rappresentano una qualche forma inferiore. Come allora, diciamo, i greci non avevano, sì, se diciamo, nella lingua greca, aner, genitivo andros, indica uomo in generale, quindi tutti gli esseri umani in qualche modo hanno diritto in greco a questo genere andros, però gli esseri umani che non sono greci, i greci non li hanno mai chiamati aner, andros, androi, li hanno chiamati barbaros, barbaroi. Che cosa, il termine barbaro che cosa vuol dire nel greco antico? Vuol dire colui che borbotta, colui che parla una lingua così diversa che non è neanche una lingua, barbaros vuol dire questo, uno che fa dei per parlare, che non è capace di parlare come noi, che non è capace di parlare come il greco. Vedete che c'è un pregiudizio etnocentrico anche lì, cioè in qualche maniera. Allora, come dire? Però, no, cioè, secondo me uomo è più, c'è un sinonimo di umanità, nel senso, se io dico uomo non è che mi riferisco solo all'uomo bianco. In che lingua? Beh, quello occidentale. No, sì, ok. Ho detto, è ovvio che la cultura occidentale, almeno dai tempi dei greci e anche prima, ha una ispirazione, diciamo pure illusoria, perché è un'illusione universalista, quindi è chiaro. Qualsiasi altra cultura, compresa quella cinese, che comunque anche lei ha una tradizione, cioè, diciamo, tolte, ma sono due o tre al mondo, cioè due o tre al mondo, quella cinese classica, quella greca, che poi si è trasformata in quella romana e quella occidentale, ma tutte le altre culture dei popoli, cosiddetti primitivi, o dei popoli polari, dei popoli che non hanno, diciamo, scrittura, ogni volta che l'uomo bianco li ha incontrati, si è accorto che c'era questa identificazione linguistica tra l'umanità e l'etnia. Cioè l'unica cultura che aveva realmente diritto alla relazione di uomo era quella di cui il parlante faceva parte. No? Quindi c'è questa chiusura. Poi è ovvio che quando una probabilmente basta che ci sia stata la rivoluzione neolitica, e dalla rivoluzione neolitica in poi che si fa strada a una qualche aspirazione all'universalismo. Ma cioè, cerchiamo di capirci, cioè, il neolitico quanta parte occupa della storia della specie umana? La maggioranza o la minoranza? Siamo stati più a lungo paleolitici o neolitici? Te lo dico io, siamo stati molto più a lungo paleolitici. Il neolitico è una cosa recentissima. L'agricoltura, cioè le tecniche di scheggiatura della pietra un po' più sofisticate, questo vuol dire neolitico, la pietra diciamo nuova, e le prime avvisaglie dell'agricoltura si hanno all'incirca 7.000 anni, 8.000 anni prima di Cristo. E poi ci mettono millenni per generalizzarsi. Diciamo l'epoca dei metalli, la cosiddetta età del rame, che è la prima, più o meno rame, bronzo, ferro, non data più di 3.000-4.000 anni prima di Cristo. Quindi vuol dire che fra i 7.000 anni che prima di Cristo, che è il tempo in cui compaiono le prime tecniche di coltivazione, ci sono voluti 4.000 anni perché queste tecniche si estendessero abbastanza e arrivassero a un punto tale da generare le prime tecniche di lavorazione dei metalli. Ed è soltanto all'incirca nel 3000 a.C., guarda caso con la nascita della scrittura, che l'agricoltura si generalizza, a grosso modo, non in tutto il mondo. Infatti c'erano zone quando l'uomo, insomma, lui, l'America del Nord era quasi tutta di tipo paleolitico, quando i bianchi la incontrano. L'agricoltura non era qua diffusa nel Centro America, nel sud del Nord America, nel centro del Sud America sì, ma nella parte del Nord America, Stati Uniti e Canada, no, non c'era l'agricoltura, che viene introdotta dopo, insomma. Allora, diciamo, se vogliamo essere un pochino restrittivi, diciamo, la vittoria dell'agricoltura avviene circa non prima di 5.000 anni fa. Quindi 5.000 anni su, a dir poco, 250.000 anni di esistenza della specie Homo sapiens. 1,5 milioni, se vogliamo contare oltre ad Homo sapiens, le specie ominidi, ma non umane, che ci hanno preceduto. Cioè, è una bella... Vuol dire che noi parliamo a nome di uno stadio, di una fase, di una parte della storia dell'umanità, che è ridicolmente bassa. Noi siamo un'inversione recente, noi uomini, per non parlare della modernità, poi voglio dire, e la scrittura e l'agricoltura, poi ci hanno messo 3.000 più 1.500, 4.500 anni prima di produrre il salto successivo, cioè la rivoluzione industriale. Sul piano della scrittura vuol dire la stampa, e sul piano delle tecniche vuol dire il superamento del ruolo prioritario dell'agricoltura e la nascita di un settore produttivo generalizzato che è la manifattura prima e l'industria poi. Quindi se uno deve dire ma l'uomo, come secondo la storia, l'uomo si è comportato prevalentemente nel corso della sua storia in modo non moderno, in modo non neolitico, in modo non razionale, in modo non ragionare, sbaglieremmo, in modo non analitico, ecco, certo. Quindi tante delle cose che noi, e l'importanza degli studi dell'antropologia sta soprattutto in questo, cioè nel fatto che ci aiuta a liberarci del pregiudizio che identifica tutte queste qualità dell'uomo contemporaneo come qualità naturali degli esseri umani. La scrittura non è naturale per gli esseri umani. L'agricoltura non è naturale per gli esseri umani. Lo Stato non è naturale per gli esseri umani. Gli esseri umani ne hanno fatto a meno per la gran parte della propria vita. Sono vissuti senza scrittura, senza agricoltura, senza Stato. Il che non vuol dire senza cultura, ma con una cultura che non diversa, che non aveva bisogno di nessuno, per esempio, ne ho citati tre, certamente non a caso, che non aveva bisogno di nessuno di questi strumenti o di queste istituzioni, né della scrittura, né della cultura, né dello Stato, né di un'organizzazione, un Stato intendo, un'organizzazione politica complessa, basata su una serie di principi o autoritari o democratici, non, da questo punto di vista non faccio differenza, come quelli che noi conosciamo, ma che regolano in qualche modo il quadro, senza diritto. Gli esseri umani sono vissuti senza diritto. Il diritto è un'invenzione che viene fuori solo con il neolitico, il codice di Hammurabi, questo è il primo codice conosciuto, diciamo, negli Assiri, è di 2000 anni prima di Cristo, qua sono 2004, non mi ricordo. E gli altri non erano uomini? L'uomo, e infatti, nel nostro pregiudizio eurocentrico e antropocentrico, industriocentrico, noi pensiamo, in realtà ci figuriamo gli uomini delle caverne come poco più che delle scimmie. Non è affatto vero, non è affatto vero. I miti, cioè tutta la ricchezza dell'immaginazione umana di cui noi abbiamo solo visto le vestigia o le trasformazioni all'epoca della scrittura, cioè i miti trasformati in mitologie, e che poi abbiamo visto quando abbiamo, fra 700 e 800, l'uomo bianco ha incontrato le serie culture che stavano, lui diceva, ad uno stadio. Ma non è una balla, non c'è nessuno stadio, non c'è nessuna primitività, non c'è nessuna sorpresa, culture diverse dalle nostre, eppure sono culture in grado, e vedremo, spero oggi di cominciare a farvi, come dire, vedere, se già non abbiamo alluso a questo, niente affatto, come dire, dotate, niente affatto di una struttura sociale tanto più semplice della nostra, anzi per certi versi molto più complicata, molto più complessa. È un'illusione che l'uomo primitivo sia più semplice di noi, da lui. No, proprio perché semplicemente la complessità, le culture orali, proprio perché non hanno la scrittura, non hanno lo Stato, non hanno l'economia industriale, devono procurarsi degli strumenti di gestione della complessità ad un livello diverso da quello al quale l'abbiamo costruita noi. E questo livello è esattamente quello del mito e dell'organizzazione sociale che a noi appare arbitraria e complicata, ma che è quella, diciamo, per clan, quella clanica, o quella che altri hanno detto, e oggi dovremmo parlare, totemica, cioè del totem. Le culture totemiche, le culture claniche, le culture del clan, non sono affatto più semplici della nostra, sono complicate per certi versi molto più della nostra. Noi abbiamo semplificato a quel livello lì, perché abbiamo trasferito la complessità in una serie di altri piani, apparentemente più concettivi. La struttura produttiva, l'organizzazione produttiva, l'organizzazione politica, diciamo in qualche maniera rappresentativa, cioè lo Stato, però questo non vuol dire che noi siamo complessi e loro sono semplici, vuol dire che la complessità sta su piani e su strutture differenti. Questa è la grande lezione dell'antropologia, essendo una nozione per noi controintuitiva, cioè che non fa parte della nostra intuizione, è un po' come dirci la teoria della relatività, diciamo, generale di Einstein. È intuitiva la teoria della relatività di Einstein. Voi avete l'intuizione di uno spazio-tempo che non è omogeneo, liscio, eccetera, ma è curvo, che si modella diversamente, che ha delle bozze, dei buchi in relazione alle masse. Ma dove esiste? No, per noi lo spazio, eppure è così. Eppure, fino a che nessuno non la conta, la teoria della relatività, diciamo generale, oggi è quella, e tutte le robe di John Newton sono tutte favolette. La forza di gravità è una favoletta, non esiste nessuna forza di gravità. Le masse non si attraggono affatto l'una contro l'altra, il modo di pensare ingenuo e dal punto di vista scientifico mai stupido, perché c'è stato Einstein. Eppure noi continuiamo a pensare, siccome il senso comune è stato plasmato per noi dalla teoria, diciamo, galileiana, newtoniana, noi spontaneamente pensiamo in termini galileo-newtoniani. Ma questa non è affatto la, virgolette, realtà, o non è affatto la rappresentazione della realtà corrispondente al vero, allo stato attuale delle conoscenze. Poi certamente guardate bene, anzi, se arriva alla teoria delle stringhe, supererà sia la teoria della relatività che la teoria quantistica. Allora, ci siamo fin qua, per spiegarvi... accidenti. Allora, adesso possiamo vedere le figurine, perché... ultimo passaggio. Allora, però, il modo attraverso il quale l'antropologia ci dà questa idea, quindi introduciamo finalmente un termine che mi sta a cuore. Allora, abbiamo detto, primo, l'antropologia non può che essere comparativa, cioè non può che basarsi su una comprensione multipla. Secondo, l'antropologia non può che essere relativista. Relativista, cioè non può che asserire la almeno parziale, se non proprio totale, relatività delle culture. Cioè ci dice che che una cultura non può essere presa obiettivamente a modello delle altre. Per esempio per il fatto che ha avuto un certo, come dire, successo. Nessuno nega che la cultura occidentale abbia avuto un grande successo, che il capitalismo sia diventato, ormai possiamo dirlo, la forma economica non soltanto dominante ma unica su questo pianeta. Fino a 30 anni fa ce n'era, ci poteva essere l'illusione, io penso, insomma, che ci fosse un'alternativa, adesso con la fine, con il crollo dell'Unione Sovietica non c'è neanche più quella. Quindi abbiamo certamente, questo è in dubbio, nessuno può mettere in dubbio che quella cultura e economia hanno avuto successo, ma vuol dire questo che sono l'unica possibile? Intanto no, perché noi non sappiamo come si svilupperà, non sappiamo se il capitalismo sopravviverà o no a se stesso. Molti studiosi pensano che sia minato alla base da tali e tante contraddizioni interne, che certamente finora è riuscito a superare brillantemente, nessuno dice di no, però diciamo, anche se Marx ha sbagliato in tante cose, probabilmente anche nel metodo, ma insomma l'idea in fondo che dall'interno di una stessa società possano maturare delle condizioni, delle forze, delle trasformazioni tali da generare a un certo punto, non sappiamo quale, il superamento, la trasformazione radicale di società, proprio perché siamo imbevuti di questa cultura, non so più. Però questo vuol dire, in qualche maniera, affermare un principio di relatività delle culture. Detto questo, però, non abbiamo ancora risolto molto. Perché? Perché il modo attraverso il quale le culture sono relative, gli aspetti di relatività reciproca e i punti sui quali decidiamo che è più o meno significativo studiarle, queste società, nelle loro relazioni tra loro e nella loro struttura, se esiste una struttura descrivibile per ognuna di queste, diciamo, società, è ancora impregiudicato. Né il metodo comparativo, né il principio di relatività ci dicono di per sé quali sono i punti su cui questi problemi vanno attaccati. Non ci dice qual è la direzione in cui bisogna andare, in cui bisogna indirizzare la ricerca per capire le relazioni tra queste culture, che cosa hanno di comune o che cosa non hanno di, diciamo, comune. E inoltre, come dicono in inglese, last but not least, ultimo ma non meno importante, quella idea di fondo che vi ho detto prima, cioè la seconda delle caratteristiche per cui è interessante l'antropologia, cioè questo misterioso carattere comune, questo qualcosa di comune che le culture devono avere per poter comunicare tra loro, a che livello si situa? Noi non lo sappiamo, ma ci suggerisce che ci sia in qualche modo o qualche struttura o qualche atteggiamento o qualche contenuto, attenzione, qualche contenuto culturale che sia generalizzabile, che sia valido per tutte le culture. Io spero di dedicarmi, io non faccio tanti altri, a demolire questo falso ragionamento, che ci sia, che non è. Però obiettivamente cominciamo col prendere atto che la cosa più semplice per capire qual è la comunanza tra le culture, come la comunanza tra le lingue, sia quella di dire: bene, superficialmente queste culture sembrano diverse, questi linguaggi sembrano diversi. Ma se andiamo a scavare sotto sotto, c'è un substrato, guardate che sto usando tutti i termini che hanno il prefisso sub, eh? Quindi qualcosa che sta sotto, sub sotto in latino, subacqueo, chi va sotto l'acqua, subgiacente, qualcosa che c'è sotto. La superficie può essere diversa, eh? Il prato, sul prato fioriscono tanti tipi di fiori, la violetta, il tulipano, non tanti perché non è, che tutti i fiori, però diciamo tanti cose diverse. Però se vado a scavare sotto sotto, cosa c'è sotto ai fiori così diversi? C'è la terra che è uguale per tutti. Quindi attraverso, attenzione, ripeto, io e non solo io ma tanti altri pensiamo che questa sia un'illusione, che non ci sia in realtà nessun substrato, che sia una illusione prospettica pensare che ci sia qualcosa di realmente unitario e univoco sotto. Però obiettivamente questo è il modo più semplice per affrontare la questione. Cioè che ci sia, allora, una, abbiamo usato il termine substrato, quindi cioè se usiamo il termine, un altro termine col sub, solo per sub, è scomparso in italiano e si è trasformato anche nelle altre lingue, ma sempre da sub deriva, che ci sia una sostanza comune, usiamo il termine di Aristotele, substanza, la sostanza viene dal latino substanza, cioè ciò che sta sotto, substanza, quindi c'è sempre il sub, che ci sia una sostanza comune a tutte le lingue, a tutte le culture, eccetera, eccetera. Questa è l'ipotesi dell'universalismo. Obiettivamente questa è l'ipotesi più semplice che si possa fare per spiegare dove sta quel nucleo, quella cosa di traducibilità reciproca, almeno relativa, tra lingue diverse e tra culture diverse. Le lingue e le culture non sarebbero traducibili se non avessero una sostanza comune. Facciamo un passo ancora e a questa sostanza diamogli un nome un po' più specifico. Sostanza è un po' troppo generale, è un termine troppo filosofico, troppo aristotelico, in realtà il termine greco però anch'esso c'ha hypomnion. E c'è sempre hypo però, hypo, tu dire sotto, sempre hypo, è come il sub latino, quindi a un certo punto arriva qualcuno e dice sì, certo, questa sostanza comune non è altro che una specie di ossatura, di scheletro, comune a tutte le culture, comune a tutte le lingue, poi viene rivestito di carne, peli, pelle, ossa, muscoli diversi gli uni dagli altri, ma la struttura è quella comune. Per qualche tempo la parola magica, prima di struttura, è stata funzione. Per Marinotti la parola magica era funzione. Marinotti è stato uno dei primi che ha sganciato l'antropologia dal pregiudizio, non del tutto, ma insomma da una parte del pregiudizio etnocentrico, e Marinotti ha detto no, non c'è nessuna cultura, sì, in realtà poi pensavo che era la cultura occidentale più superiore, ma insomma, come dire, degna, ecco, non ci sono culture degne e culture indegne, sono tutte degne uguali. Certo, quelle più sviluppate sono più importanti. E che cos'è che accomunava le culture tra loro, secondo i nostri? La funzione. Le strutture sociali, le differenti strutture sociali, esperite nel corso dello studio dell'antropologia, e poi l'antropologia non è altro che una sociologia comparata, no? Cioè si vanno a prendere tutte le varie società e si vedono come queste società sono simili e come differiscono, ma da questo punto di vista la sociologia e l'antropologia sono la stessa cosa, non sono poi tanto diverse, solo che la sociologia studia a fondo una sola società, in genere quella di cui fa parte lo studioso. Quindi ci sarà una sociologia occidentale, ma ci può essere anche una sociologia maori, una sociologia winnebago, una sociologia siu, una sociologia arande, una sociologia per tutte le culture. E entro certi limiti si può dire che ci sono, si possono andare a ritrovare. L'universalità sociologica per Malinowski era la funzione. L'universalità sociologica per Marcel Mauss, vedremo adesso, è qualcosa a metà tra la funzione e l'istituzione, e adesso vedremo oggi questa curiosa. Quella di Marcel Mauss rappresenta probabilmente a livello dell'antropologia classica la più originale tra le soluzioni proposte. Quella di Malinowski è debolissima, perché c'è un fatto molto semplice: ogni punto di vista funzionalista, cioè ogni punto di vista che tenda a dire le strutture sociali sono tutte spiegabili, tutte e solo spiegabili con la funzione alla quale esse soddisfano. La spiegazione del Kula, che abbiamo studiato un po', di cui vi ho parlato un attimo, per Malinowski, è questa. Perché? Perché i trovialdieti fanno il Kula? Per far circolare non solo le ricchezze, non solo i beni, ma soprattutto i comportamenti, cioè, gli esseri umani e i comportamenti in una zona abbastanza vasta, quando la geografia la presenta frammentata in una serie di isole. Siccome questa roba avviene tra isole di diversi archipelagi su un'estensione per noi non molto limitata, ma per il navigatore melanesiano molto grande, l'unico modo è quello di inventarsi una. Ora, naturalmente, questa spiegazione di Malinowski, spero che come pagate da soli, che fa qua da due parti, perché non, ok, supponiamo che sia vero. Supponiamo che ci sia, ma tu mi devi ancora spiegare perché per fare questi viaggi da un'isola all'altra i melanesiani delle isole, i troviandesi, i luini, eccetera, hanno avuto solo i crocevili sopra. Un sistema di miti così strani, con un dio, un mezzo uomo, un mezzo crocevile, un mezzo serpente. Di inventare una serie di riti così bizzarri per cui ogni cosa andava benedetta, ma la canoa appena costruita, prima che fosse messa in mare, le vele, i beni che gli porti in dono vanno sottoposti a dei riti, degli esorcismi, degli incantesimi. Va bene, ok che c'è la funzione, ma tutta sta roba perché? E perché a 52 km, a 120 km di distanza un'altra popolazione assicura la stessa la stessa funzione sociale assicurata dal complesso sociale di pratiche del Kula malinowskiano, studiato da Malinowski, viene assicurata da pratiche totalmente diverse, da incantesimi totalmente diversi, da miti totalmente diversi, in cui non c'è più un uomo serpente ma un uomo leone, o un uomo mezzo codrillo, mezzo, in cui cambia tutto. Il funzionalismo, proprio perché è troppo, immediatamente universalista, fallisce nello spiegare la diversità degli strumenti messi in atto. Certamente il funzionalismo e quindi Malinowski sono stati giustamente il punto di partenza ineludibile per il rinnovamento dell'antropologia, se no l'antropologia sarebbe rimasta costantemente allo stadio o di Taylor o di Fraser, i quali pensavano altrettanto ingenuamente che tutte le culture primitive non fossero altro che degli specchietti, degli specchi nei quali noi guardavamo il nostro passato, non fossero altro che delle tappe di uno sviluppo unico, universale, che doveva portare alla. Anche per Malinowski la cultura occidentale è in qualche maniera il culmine di tutte le culture, ma Malinowski almeno non fa l'errore di ascrivere questo risultato ad una pura legge della rivoluzione naturale, cioè cosa dobbiamo andare così perché no. Malinowski sa bene che il primato, se primato c'è, della cultura occidentale è un fatto in gran parte casuale, in gran parte dovuto al fatto che gli occidentali si sono trovati. Certo, è difficile spiegare totalmente questa cosa anche dal punto di vista funzionalista, cioè il funzionalismo in qualche modo abbatte metà dell'incastellatura del, diciamo, dell'evoluzionismo indietro, ma al massimo il funzionalismo può aspirare a diventare un evoluzionismo sofisticato. Ora, mentre non c'è dubbio che nel campo dello sviluppo della biologia l'evoluzione naturale sia l'unica spiegazione, cioè la spiegazione più sensata e quindi quella che va adottata dal punto di vista scientifico, questa cosa non è affatto legata alle culture, non c'è nessuna evoluzione delle culture, non c'è nessuna regola o legge generale per cui le culture devono tutte passare attraverso certi stadi per poi diciamo raggiungerne certi altri. Quindi ci vuole un altro punto di vista. Marcel Mauss e sono due che ho scelto io, insomma, ma hanno la parte rilevante. Marcel Mauss prima e soprattutto il discorso dopo sono quelli che hanno, diciamo, fornito le teorie, cioè le letture più, non dico più persuasive, ma più diciamo sofisticate, più complesse, dopo quella dopo lo stadio che abbiamo funzionalista, che è un bel passo avanti, per spiegare differenze e rapporti tra le culture. Tutto questo era una premessa, ragazzi, pensate un po', se e adesso capite perché ci metto, perché sono cose che ci posso fare. Allora, vediamo di, perché io poi non è che non ve le preparo le figurine, ve le preparo. Allora, qui intanto, allora, com'è che faccio qua? Uso questo, giusto? Sì, maledetto. Allora, andiamo a vedere. Allora, come abbiamo detto che faccio per farvele... Faccio così, no, non mi ricordo. Con il maiuscolo? Sì! E poi cosa faccio? Li clicco sopra? Boh. No. Tasto destro. Apri. Oh. Dite che ci siamo? È un po' in piccolo, ma ci siamo. No, questo come ingrandire? Perché non si ingrandisce? Ah, perché è così, perché se lo... Forse in basso a destra c'è il comando, no? Aspetta che non la finestra direttamente, per adatta. Ah no, ecco, provi a cliccare sulla prima foto, in alto a destra. Questa? Sì. Ah no, si apre solo così. No. Meditazione. Sì, però sono tutte così, comunque. Allora, Weber, Durkheim e Mauss l'abbiamo già visto, Durkheim l'abbiamo già visto. Marx l'abbiamo visto, non ne parliamo. Questo è Durkheim, l'altro è Weber. Questo chi è questo? È Durkheim, è sempre Durkheim. No, ok, Marcel Mauss, fermiamoci qua. Vabbè, allora, ragazzi, è terribile, qua c'è, ma non si vede nulla. Qua c'avete le faccine di Durkheim e di Mauss. Durkheim con la sinistra, Mauss con la destra, non si vede il buco perché è troppo piccolo. Allora, abbiamo detto chi è Marcel Mauss. Rapidissimamente. È l'immagine che è piccola, non si può. Era piccola, sì, non ce la facciamo a. Ma intanto non è che ci serve tanto. Adesso andiamo avanti però. Ah sì, eccola, c'è uno che fa la terz'ultima icona alla sua destra. Provi a vedere se è quella che allarga. Questa? La terz'ultima. Perfetto. Allora, fermiamoci qua. Non è grandissimo, ma è meglio. Sì, ma è meglio. Però non posso fermarla. Adesso ferma. Va bene, perfetto. Va bene, allora, diciamo due cose su Marcel Mauss. Allora, vi ho già detto che Marcel Mauss era... non mi pigliate in giro così per poco. Allora, Mandelbrot nasce nel 1872, quindi qualche anno dopo lo zio, che abbiamo detto, è Durkheim. Sì. Studia anche lui prima filosofia, poi sociologia, eccetera, eccetera, e diciamo, a partire dagli anni 1880-1885 si mette a fare ricerca. Lui dice di tipo sociologico. A 13 anni. Comincia no, 1872 lo scrive. Sì, sì, sì. Verso la metà, sì. Sì, sono verso i 15 anni. Che no, no, giovanissimo. Le prime cose che pubblica, in effetti le pubblica alla metà degli anni 80 dell'Ottocento, quindi abbastanza giovane. Allora, la sua prima opera, diciamo, significativa, che è il saggio sul noi, ma questa è già più, però c'ha 26 anni, insomma, è del 1898, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, saggio sulla funzione e sulla natura del sacrificio. Allora, Marcel Mosen, quindi, diciamo, studia ora come, diciamo, sociologo, però, ed è nipote di un grande sociologo, di Durkheim, eccetera, eccetera, però comincia abbastanza rapidamente a confrontare, insomma, società, sociologie e cose diverse, soprattutto ad occuparsi di quella zona dello studio della società, cioè della sociologia, un po' più in ombra rispetto a questo alla sociologia, diciamo, di tipo tradizionale, di Comte, di Spencer, la sociologia positivista. In questo, bisogna dire, è appunto favorito dal fatto di essere, diciamo, nipote di Durkheim, perché Durkheim è uno dei primi che, prima ancora di Max Weber, o quasi contemporaneamente a lui, si occupa di, cioè tenta di dare una spiegazione sociologica anche alle cose che i positivisti avevano lasciato da parte, almeno quelli classici, per esempio Comte, perché le consideravano legate, avrebbe detto Marx, alla sovrastruttura, cioè alla produzione ideologica, per esempio la religione. Allora, siccome però l'opera maggiore di Durkheim è Le forme elementari della vita religiosa, in cui Durkheim si sforza di dare una spiegazione, una descrizione, è una spiegazione sociologica della, diciamo, religione, cioè che cosa tenta di dire in altri termini. Tenta di studiare la, diciamo, religione, non dal punto di vista ovviamente dottrinale, delle teorie religiose, eccetera, ma dal punto di vista della funzione, un po' di funzionalismo, cioè, certo, è giusto che ci sia, dal punto di vista della funzione che hanno, che ha la dimensione religiosa dentro una società. Una religione, è chiaro che non può essere, questo nessuno probabilmente l'aveva mai pensato, non può essere un qualcosa di attaccato con spunto a della religione. Prima c'è la società, poi siamo gli uomini, sono comandi, ci aggiungono Dio, aggiungono l'idea, aggiungono. No, come dire, la religione nasce, ed è per questo che lui poi a poco studiando questa per cui arriva a. È sino dallo studio delle società più primitive che si rende conto che la religione ha sempre avuto una funzione, come dire, sociale. È sempre stata un elemento della costruzione di quelli che Durkheim chiamava i fatti sociali. Ricordate che abbiamo introdotto la volta scorsa la nozione di fatto sociale. I fatti sociali hanno altrettanto a che fare con la religione dei fatti ideologici, dei fatti dell'immaginazione, dei fatti di altro, di altro tipo. Ed è per questo che Durkheim si occupa, Moss comincia ad occuparsi di una serie di temi che sono tutti più o meno orientati verso questa cosa, o verso l'aspetto religioso quindi, diciamo, verso l'aspetto sociale della vita religiosa, quindi sulle orme dello zio, di Durkheim, però lui fa degli studi molto più specifici e molto più, diciamo, concreti. O da un lato, dall'altro verso attività apparentemente semplici, apparentemente anzi banali, che però noi ci accorgiamo a volte che sono diciamo più significative di quello che noi pensiamo. Allora, adesso vi faccio subito l'esempio. Un esempio delle prime due cose sono, allora, l'opera del 1898, abbiamo detto, che è Saggio sulla natura e la funzione del sacrificio, scritta con il suo amico e collaboratore con cui scriverà molte cose, che si chiamava Henri Hubert. Henri, come si chiama Henry, però con la I, non con la I, se non in francese. Hubert, quindi Hubert, con l'H davanti. Allora, Saggio sulla natura del sacrificio, 1808. Mentre nel 1902, sempre con Henri Hubert, scrive un'altra opera che si chiama Schizzo di una teoria generale della magia. 1902, sì. Schizzo e schiz, cioè abbozzo, si potrebbe dire, di una teoria generale della magia. Sempre con Hubert. Nello stesso anno, 1902, invece, però scrive un'altra opera fondamentale, con questa volta addirittura con lo zio, cioè quindi con Durkheim, firmato insieme, che è Decalform Primitive de Classification, su alcune forme primitive di classificazione. Ora, la classificazione, voi dite, ma che è la classificazione? Cioè, si dà tutto, si dice, invece no. La classificazione è una operazione molto sofisticata e non così ingenua come noi diciamo pensiamo. Sapete tutti, spero, forse avete tutti letto di quella famosa classificazione degli animali che Borges, chi è? Jorge Luis Borges, il più grande scrittore argentino, credo, di tutti i tempi. Morto un 15 anni fa, Borges, scritto Borges, si pronuncia come lì spagnolo. Borges, una volta Borges scrisse una roba e sostenne, probabilmente è una parola, ma insomma una finzione, di avere trovato una classificazione cinese degli animali che grosso modo faceva così, adesso ve la cito a memoria, quindi forse non è quella giusta. Dice, gli animali si suddividono in 1. Appartenenti all'imperatore, 2. Al pelo corto, 3. Che strisciano sulla sabbia, 4. Arrivate avanti così. Ovviamente dopo la quarta o la quinta, già fino dalla prima, se non abbiamo riso in maniera ci sia almeno increspate le labbra ad un bel sorriso, perché è una presentazione totale, cioè, dal nostro punto di vista della mente analitica, totalmente, perché mescola categorie che a noi appaiono totalmente incongrue. In realtà, se ci ripetiamo, poi questa opera è stata citata da Foucault, da Michel Foucault, nella sua opera Le parole e le cose del 63, sì. Quindi insomma c'è una storia questa, perché poi compare in tanti altri testi del 1900. Che cosa insegna questa classificazione? Nel modo paradossale con cui Borges è un maestro da questo punto di vista, mostra che dietro ogni classificazione c'è un sistema di categorie che la classificazione in quanto tale non esprime, ma che presuppone. La classificazione realmente o presuntamente attribuita al testo, diciamo, cinese o forse inventata di una pianta da Borges, che cosa fa? Perché ci appare così buffa? Semplicemente perché altera, senza dirlo in modo esplicito, le categorie tradizionali sulla base delle quali noi classifichiamo, per esempio, gli animali. Noi siamo figli della classificazione lineare, quindi diciamo gli animali si dividono in vertebrati, poi gli invertebrati si dividono in insetti, artropodi, vermi, eccetera. Se uno ci dice mai scrivere lì, uno, appartenente a operatore, due, a pelo lungo, uno che striscia, ma poi qualcuno c'è alla settima o all'ottava diritto, non so, sono, scusate, sono distinte con A, B, C, D, E, allora A, B, C, D, H, disegnati con un pelo finissimo di cammello. Gli animali si vedono, cioè, allora dice, ma come? L'animale è vero, disegnato, non capisco. Cioè, c'è solo una confusione delle categorie. Allora, Borges suppone, ci suggerisce che ci potrebbe essere benissimo un sistema categoriale nel quale questa classificazione è del tutto pertinente, no? Ecco. Allora, quindi voi capite che adesso io tutto questo ve lo dico per spiegarvi perché un'opera dal titolo apparentemente così anonimo e anche un po' stupido forse, come su alcune forme primitive di classificazione sia invece molto importante, perché se è davvero come è quest'opera di Mosse uno studio sui presupposti, quindi sui sistemi categoriali attraverso i quali certe culture operano le classificazioni, e ovviamente questi sono diversi dai nostri perché sono, come dire, società, abbiamo visto, di tipo, diciamo, chiamiamole totemico, cioè quindi società che associano in qualche maniera animali, uomini e piante, e a volte anche oggetti inanimati, dando a ognuno di questi termini una serie di corrispondenze totalmente differenti dalle nostre. A noi ci fa ridere, noi pensiamo che sia segno di stupidità raggruppare, credo che ci sia una categoria di persone accomunate dal fatto di essere tutte più o meno collegate con lo spalliero, e lo chiamiamo il clan dello spalliero, e diciamo e noi tutti fieri della nostra occidentali, questo è il clan dello spalliero. Poi ci dimentichiamo che molti di noi tutte le domeniche, molti di noi, non io certo, ma molti di noi vanno per esempio in luoghi aperti ma in qualche maniera conclusi, si siedono su una serie di gradinate, di spalti, guardano nella parte centrale, ellittica o circolare più o meno, e vedono 24 più 20, 26 cretini vestiti di magliette, una metà in un modo, metà in un altro, che corrono, che si agitano, sudano dietro un oggetto sferico, gli danno dei calci, preparano le cose, eccetera. E entrano ed escono da questo stato, da questo posto chiamato stadio, issando vessilli con dei colori strani, strisce, disegnini, cose, pronunciando slogan che inneggiano a certi esseri umani misteriosi, e poi discutono tra loro in maniera tecnica incomprensibile al profano. No, ho voluto dare il colpo dell'azione, sì, gliela ha passata, ma non gliela ha passata la palla, doveva passare dall'altro, non guarda la terra, se gliela passa così, non gliela guarda a me. Ora, tutto questo è, se voi pensate uno che arriva avanti, questi sono cretini. È peggio, è più razionale questo o il clan lo fa vero, osservare certe proibizioni alimentari, per esempio non mangiare star vivo il venerdì, eccetera, eccetera, e con il massimo rispetto, scusate se faccio questo paragone, mi rendo conto totalmente blasfemo, ma è tanto più diciamo razionale andare a sentire tutte le, come dire, domeniche una persona paludata con un lungo vestito nero e tante robe di pizzo bianco sopra che parlano tempo in latino, oggi in italiano, che prende un pezzetto di pane senza lievito, rotondo, lo innalza, poi lo mette dentro una teca più o meno d'oro, si suppone, è una cosa che sia d'oro, e tutti questi che vanno a seguire questo bizzarro e miracoloso rito osservano certe particolari comportamenti, per esempio non mangiano carne venerdì o fanno dei digiuni, un'alimentazione particolare in certe particolari settimane di primavera che loro chiamano quaresima, eccetera, eccetera. Allora, se voi decontestualizzate e togliete le robe da loro, cioè tutti i comportamenti umani sono ugualmente, tutti i mezzi sociali sono ugualmente infondati, e quindi anche la famosa e quindi, mentre se tutti hanno invece diritto all'interno del proprio contesto a una loro, se volete, giustificazione, allora anche la diciamo, classificazione delle mani di Borges può pensare che abbia una sua, che noi non sappiamo, che noi non conosciamo, ma che potremmo, se fossimo paranoici quanto Borges, se avessimo del tempo da perdere quanto lui, cioè se fossimo stati un grande scrittore, per fortuna sua non doveva lavorare per vivere, quindi poteva dedicarsi quasi solo a quello che gli piaceva, cioè che era inventare le storie, scrivere, eccetera, eccetera, potremmo anche, volendo, perché no, provarci a costruire, a enunciare un possibile sistema di classificazione all'interno del quale la classificazione degli animali di Borges abbia un senso. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno ha provato a farlo, insomma, però uno di questi, diciamolo, non abbiamo le risposte, però per esempio una persona, un italiano questa volta, chiamato Italo Calvino, ha provato varie volte a costruire situazioni nelle quali alcune delle cose più paradossali di Borges, se non avete mai letto di Calvino, non parlo ovviamente del Calvino giovane, del Calvino dei racconti della resistenza, e neanche di quello della trilogia fantastica, del Visconti inventato, il Barone Vasera, ma al Calvino maturo, quello del castello di Destini Incrociati o anche delle città invisibili in qualche modo, ma più il castello di Destini Incrociati, che è il romanzo più strutturalista dell'opera, o anche Se una notte d'inverno mi ha fatto. Insomma, queste due, queste tre opere, Se una notte d'inverno, il castello di Destini Incrociati e le città invisibili, sono le opere più, che volete, borghesiane, e per certi versi anche più strutturaliste, il termine strutturalismo adesso diciamo, ma come la faccio lunga, ma è terribile. Non mi riesce mai di stare attaccato a un tema e divago in continuazione e mi faccio perdere le cose, va bene. Allora, perché tutta questa palla statuale? Perché vogliamo arrivare però all'unica opera di Marcel Mauss di cui parlerò un po', che è invece un'opera, perché no, perché Mauss ha scritto anche delle cose da solo, queste qua le ho scritte, io ho detto tre cose importanti scritte con altri. Invece nel 1924, quindi all'incirca 20 anni dopo o più, 25, 26, quasi 30 anni dopo, 26 anni dopo questa prima opera con Marcel Mauss, nel 1924, Marcel Mauss scrive però l'opera da solo, questa volta ripeto, per la quale forse, non lo so se è famoso solo per questo, comunque è la sua opera più conosciuta, per dire diversi, più intrigante, che si chiama Essai sur le Dons, Saggio sul Dono. Saggio sul Dono, 1924, ciò quella di cui parleremo. Un'altra opera però che Saggio sul Dono, 1924. Un'altra opera di quale vi voglio parlare, finalmente, no, vi voglio solo dire almeno il titolo, è un'opera più tarda ancora del 34, che è Le tecniche du corps, Le tecniche del corpo, 1934. Allora, Marcel Mauss, ok, come vi ho già detto, il modo di lavorare di Marcel Mauss non ha mai fatto l'etnologo sul campo, è un antropologo, virgolette, teorico. Se voi leggete le sue cose, lui ha una conoscenza dei modi di vita, eccetera, delle culture diverse dalla nostra, impressionante, fa delle note analitiche, cita le cose. Però sono tutte robe che lui ricava dai resoconti di chi c'è stato davvero. Però nello studio di questi resoconti era infaticabile, analitico, non gli suggeriva nulla, prima di scrivere una cosa si faceva una documentazione assolutamente totale, globale, eccetera, quindi non c'è proprio, come dire, problema. Dunque muore nel 1950 e nel 1950 è lo stesso anno in cui già si stava preparando una, diciamo, edizione se non completa, quasi completa delle sue opere, quindi casualmente nell'anno della morte, cioè 1950, quindi, che mi rendo conto che per voi è un anno, come dire, anch'esso preistorico, ma a me mi impressiona perché io avevo 6 anni quell'anno lì, quindi ero già nato, abitavo già questo pianeta. Esce un libro chiamato Sociologie et Anthropologie, Sociologia e Antropologia, dalla Presse Universitaire de France, la PUF francese, parigina, in cui sono raccolte le principali delle sue opere. Vi cito questa edizione perché la lunga e complessa introduzione a questo libro, Sociologie et Anthropologie di Marcel Mauss, viene scritta da un, beh, non da un giovane perché ha già 42 anni credo, ma da un già affermato nuovo antropologo, che è quello di cui parleremo dopo Mauss, cioè Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss non si può dire che sia stato un discepolo di Mauss, però Mauss è stato importantissimo per la, e comunque se non fosse stato Marcel Mauss non ci sarebbe stata nulla della antropologia successiva a Marcel Mauss, quindi anche quelli che lo hanno criticato, come in parte ha fatto, questo vale anche ovviamente per Malinowski, eccetera, insomma, però Marcel Mauss è una figura di snodo più fondamentale. Perché vi ho messo questa è una rivista, perché questa è l'Année Sociologique, l'annata sociologica si chiama, Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, Bibliothèque de Philosophie Contemporanea, leggete sotto fondateur Émile Durkheim. Quindi questa è una rivista di sociologia fondata da Durkheim, nella quale in un numero del 1900, riviste che escono, cioè riviste non vuol dire panorama, no, vuol dire dei libri così grossi, sono riviste che escono una o due volte all'anno, in questa rivista comparve per la prima volta Le Sesse Sulle Donne. Questo è esattamente il numero, adesso se andate a vedere, se vi avvicinate, fidatevi di me, nel riquadrino leggete il primo, non leggete, ma il secondo è Marcel Mauss e Sesse Sulle Donne. Forma, non mi frega neanche me, forma delle change, mi sembra sia, forme qualcosa dello scambio. Questo poi dico. Quindi qua compare il Saggio sul Dono, questo è il numero. Perché anno? 1924. 24. Perché la prima volta esce lì, esce su questa rivista qua. Allora, e sul Saggio sul Dono noi ci troviamo un po' perché è quello, è l'opera di Marcel Mauss, cioè che ho scelto per rapidissimamente, ve ne parlo, che bello, va bene, cioè, non dico che siamo in tempo, ma volete parlare ora la pausa prima di Mauss? Perché tanto. Sì, perché poi anche se tutte le allegria fra un po' e quindi no, come dire, potevo anche far sentire la prima, però non ha senso. Dai. Allora facciamo un po' di pausa ora e riprendiamo fra 10 minuti con l'analisi di te, per vedere cos'era il Saggio sul Dono, e poi finito questo come sta parlando di Lévi-Strauss. Ma oggi andando tutto sommato. Cioè, velocissimo. Sì, no, perché. Ma perché sono angosciato, adesso chiudo qui.